Bismillahirrahmanirrahim, nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Auradun fathiyya, giaculatorie inaugurali da recitare dopo il rito di adorazione dell'alba come inaugurazione islamica della giornata al fine di propiziare il favore, la misericordia e la benedizione di Allah, rifulga lo splendore della sua luce.